È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Si può scherzare secondo te, Luca Telese, sulla vicenda di Sallusti? Si può scherzare in questo modo, aprendo la trasmissione con questa canzone di Bennato, cioè sulla condanna a 14 mesi confermata dalla Cassazione nei confronti di Alessandro Sallusti? Cioè, la legge quando si tratta di giornalisti, quando si tratta di corporazione, non va applicata, è esagerata? Come la pensi, Luca? Dimmi subito. No, guarda, sai che mi piace litigare con te, ma questa cosa è surreale. Siamo veramente in un momento drammatico. Drammatico addirittura, sì, perché drammatico? Perché quello che accade a Sallusti può accadere a chiunque di noi. Abbiamo querele, abbiamo minacce, abbiamo piccole e grandi intimidazioni, abbiamo ricatti economici. Ma tu non la pensi come Massimo Fini? Non la pensi come Massimo Fini, che ha scritto: anche la stampa può uccidere, anche un articolo può uccidere, anche un articolo può provocare dei danni. Adesso, al di là della condanna a 14 mesi, io sono amico di Sallusti, sono amico del giornale, eccetera. Però resta la questione, non guardo in faccia a nessuno. Cioè, anche un articolo può fare male, sì o no? Che un articolo possa fare male non c'è dubbio, però bisogna dire che quell'articolo non era uno schizzo di fango in cui si diceva che, ne so, Cruciani si accoppia con le minorenni. Era un pezzo che conteneva un'opinione brutta, secondo me, sull'aborto, sull'aborto volgare, sì. Ma un'opinione. 14 mesi per un'opinione. 14 mesi per un'opinione. Allora, un'opinione brutta non può valere una... Mentre invece una diffamazione, colpire, sì, una persona, metterla in disagio, rivelare particolari sensibili, sì, sulla persona, sì, sulla vita, sulle reazioni, questo sì, ma un'opinione. Allora, il titolo di questo articolo. Dalla parte dei no, cattivi, io non sono dalla parte dei cattivi, non ho espresso un'opinione. Mi pongo la questione: un articolo può fare male, può portare, sì, al carcere, sì o no? Sì. Un attimo solo: l'articolo si aveva questo come titolo: il giudice ordina l'aborto. La legge più forte della vita, il dramma di una tredicenne. C'è il caso di una tredicenne a Torino, siamo nel 2007, che viene, tra virgolette, costretta da una serie di persone ad abortire. Sembra che lei non volesse, anche se poi le informazioni erano contraddittorie. Il commento targato, marchiato Dreyfus, nome che veniva utilizzato dal quotidiano Libero, come dire, a disposizione della redazione. Noi sappiamo chi è l'autore di quell'articolo, vero, da Luca? Lo sappiamo io e te. Lo sappiamo chi è l'autore di questo articolo, ma prima domani di pentirmi, scrive Dreyfus, alias lo sappiamo, lo scrivo: se ci fosse la pena di morte, se mai fosse applicabile in una circostanza, questa è la frase incriminata, ve la ripeto, se ci fosse la pena di morte e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso per i genitori, il ginecologo e il giudice, cioè dire... Sallusti o chi per lui si augura la pena di morte per i genitori, il ginecologo e il giudice. Questa frase vale 14 mesi di carcere e diverse migliaia di euro di condanna. La Zanzara inizia così: 800 24 00 24. La Santanchè, che è la compagna di Sallusti, avrebbe detto che si sarebbe incatenata davanti alla Cassazione in caso di condanna. Vedremo se lo farà. Intanto questo oggi pomeriggio. E Sallusti rimarrà in carcere per 14 mesi, perdendo peraltro anche il lavoro, perché dovrebbe dimettersi da direttore e non so l'ordine dei giornalisti come si comporterebbe nei confronti di Sallusti, quindi una vita pesantemente rovinata, certo, perché il carcere, la perdita del lavoro è di più che possiamo farlo, ucciderlo, non mi si risulta sino adesso che ci sia la pena di morte per il reato d'opinione, tra poco magari ci sarà pure quella. Sempre la Santanchè, passiamo ad altro argomento, dice che Renzi non le piace, però lo voteremo in massa, caro Luca. Fra poco ti presento un ospite che conosci bene, caro Luca Telese. Penso che lo conosci. Lo conosce, è un ragazzo come noi. Renzi ha comunque un grande merito, perché con la sua vittoria, con la sua sconfitta, il PD il giorno dopo è un'altra cosa. E quindi forza Renzi, voteremo in massa Renzi. E questo voteremo in massa Renzi potrebbe anche intimorire qualcuno. Beh, c'è un pezzo eccezionale, quello di Donna Assunta Almirante ieri sera alla Zanzara contro la Polverini, eh. Beh, ormai calta anche sul web, mi hanno chiamato in tantissime, lo sai Luca, dopo l'intervista nostra ieri sera a Donna Assunta Almirante, dicendo che bisogna candidare con Donna Assunta, no? Bisognerebbe farle un monumento assoluto, non perché si vuole candidare insieme a te alle elezioni regionali. No, anche con te ha detto. Ha detto anche con me, sì. Con Cruciani. Ma a me non me ne frega niente, peraltro sono residente a Milano e meno male che sono residente a Milano, e meno male da questo punto di vista. Senti un attimo, la Polverini doveva dimettersi prima, questo te lo ricordi questo passaggio, non l'avrei sostenuta, senti. Ma la Polverini ha fatto bene a dimettersi o no? Ha fatto benissimo, si doveva dimettere prima. Prima addirittura. abbiamo solo il dispiacere di avere girato e lavorato tanto per farla votare. Addirittura si è pentita di farla votare. Eh sì, perché si sapeva. Faceva finta di non sapere per quieto vivere, ed è la verità. Cioè, faceva finta di non sapere la distribuzione di questi aiuti ai gruppi regionali, in realtà per quieto vivere, perché così si tenevano buoni tutti, il PDL, anche l'Italia dei Valori, anche il Partito Democratico, tutti d'accordo. No, complice non credo, ma che faceva finta di non sapere, però non credo che lei abbia approfittato della situazione, lasciava godere, ecco. Per quieto vivere, per non rompere le scatole, per avere tutti in armonia, al momento opportuno si fa una legge, si approva senza discussione qualsiasi. E quindi si teneva gli amici dei nemici. Beh, parole sagge da parte di Donna Assunta Almirante, però la protagonista, la Polverini, l'iter dell'altro delle dimissioni ancora non è stato completato, con un piccolo giallo, ieri è sbottata contro il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini a Ballarò, dove è tornata dopo tanto tempo, è nata a Ballarò ed è tornata a Ballarò. Sentiamo. Se lei poi ha deciso che sono io il colpevole, no. L'ho deciso io prima di lei perché me ne sono andata. E ditelo a quelli di sinistra di andarsene pure loro. Diteglielo, perché qui citate Formigoni, ma Vendola dove sta? Ed è indagato detto. In due procedimenti. Dove detto. Sta? Gliel'abbiamo ed Errani. Eccoci qui, 800 24 00 24, e con noi torna a parlare la Lega, qui torna a parlare la Lega che è scomparsa dal dibattito mediatico, forse è meglio per la Lega stessa, Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord, buonasera. Buonasera, ciao Luca, ciao Beppe. Buonasera. Beh, scomparsa. Un po' scomparsi, su, di la verità, Luca, com'è scomparsa la Lega? È un momento in cui lavorare tanto e parlare poco. Beh. Quindi lasciamo agli altri, esempio sabato, parliamo di economia. A Torino ci sono Squinzi, Bonanni, Passera, tanti imprenditori, tanti artigiani. Sì. Non lo pubblicizziamo e preferiamo lavorare. Ma come la politica si fa pure comunicando. Vabbè, ma non è un ma momento. Ma chi va imposto in cui questo silenzio? La signora Votino, per esempio? No, la zarina imposto, Votino? No, ma magari qualcuno alla Rai, a Mediaset e alla 7 invita meno i leghisti, perché probabilmente in un momento di scandali come questi avrebbero qualcosa da dire, ma chi se ne frega? Ma no, ma non c'è una congiura. Scusa Luca, ma è vero che nella comunicazione della Lega c'è questa nuova zarina, la signora Votino, sì o no? Dimmelo subito. È una croce. Perché una croce? Una croce, sono due mesi, sono quelli portavoci straordinari, uno parla con Maroni e Maroni dice bene, sono contento, vengo lunedì, parla con la Votino, sì. Poi ti metti nelle mani della Votino ed è finita, no giovedì non può. Ma no, cos'è sto gossip? Ma cos'è sto gossip? Ma interessa a tre persone, ma chi se ne frega, Maroni va dove riesce ad andare, dai, va. Intanto Sallusti, ma non è una critica, mi avete chiesto no, certo, se uno certo. Non invita la Lega, io personalmente l'ho invitato 10 volte, una volta mi ha anche detto vieni, abbiamo programmato uno sbarco al congresso della Lega, la parabola, il collegamento, niente. Eccetera, non c'è stato niente da fare. Vabbè, comunque questa sarà una strategia comunicativa. Ho appena annunciato ai miei giornalisti Salvini, un attimo, faremo un collegamento dal tinello di Salvini, almeno sono sicuro che c'è. Dal tinello di Salvini. Non è grossissimo, la telecamera ci sta, sono a disposizione. Allora, ho appena annunciato ai miei giornalisti che stasera mi dimetto, questo dice Sallusti, ormai è diventato un caso nazionale. Che riguarda soprattutto la libertà di informazione, di esprimere le proprie opinioni, eccetera, eccetera. Però in realtà non è sicuro che va in carcere, perché bisogna aspettare la decisione dei magistrati di sorveglianza, eccetera, eccetera, il ricorso dello stesso Sallusti. Voi volete fare come la Catalogna? Sì, mi permette di dire che nei regimi fascisti e comunisti i giornalisti finiscono in galera. L'altro giorno ha scarcerato a Legnano un medico che ha ucciso la moglie e gli ha dato i domiciliari. Ecco, mettere in galera un giornalista e lasciare uscire un assassino mi sembra demenziale e folle. Però ma anche perché così. Con tutto quello che dite voi a Radio Padania... Io sono per la libertà di pensiero e di parola, se poi qualcuno si offende lo quereli, lo denunci, fai quello che vuoi, ma la galera lasciamo agli assassini e ai rapinatori. Cioè, di la verità, Matteo, con tutto quello che dite a Radio Padania, altro che 14 mesi rispetto a quello che ha detto Sallusti. No, da noi gli ascoltatori sono liberi di dire quello che vogliono, come da voi, peraltro, come da voi. Tu la senti ogni tanto Radio Padania, di cui Salvini è direttore? In questo momento sicuramente ci sarà un massiccio cambio di ascolto da Radio 24 a Radio Padania. Sicuro. Allora, cioè, il fatto è questo: i conduttori di Radio Padania, che sono simpaticissimi, ogni tanto si lasciano andare a delle cose, per cui altro che Sallusti con quello che ha scritto, cioè dovrebbero avere, seguendo le indicazioni di questo signore che ha fatto la sentenza, dovrebbero avere 20, 30, 40 mesi. Altro che. Ma perché volete fare come la Catalogna? Cioè, voi sperate ancora di fare una cosa come. Cioè, di avviarvi verso questa. Noi speriamo che la gente possa decidere il suo futuro. In Catalogna sono scese in piazza 2 milioni di persone, cioè, vogliono tenersi i loro quattrini. No? L'indipendenza è l'obiettivo? Sì, assolutamente. Noi chiederemo alla gente in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, se è d'accordo o meno sul tenersi tre quarti delle tasse sul suo territorio. Ma Piemonte, Veneto e Lombardia e basta? Friuli e stavo semplificando. Al nord, a chi ci sta? E come? Attraverso che cosa? Un referendum? Un referendum per indipendenza. Why not? Intanto preferisco tenermi qua i tre quarti delle tasse. No, oggi la Costituzione non lo permette. Vuol dire. Oggi puoi mettere insieme delle regioni, questo c'è la. Vabbè, ma ho capito, però l'obiettivo finale è l'indipendenza. In Catalogna, in Scozia, arriverà anche in Baviera e fanno un referendum. Secondo me è democrazia. Cioè, bisogna fare il referendum anche in Italia. Adesso la priorità è quella economica. Vabbè, quindi, è diventato moderato. Ci chiamiamo Lega Nord per l'indipendenza della Padania, Cruciani, non ci chiamiamo moderato. Lega Nord, Pippo. Se uno si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania, tendenzialmente punta all'indipendenza della Padania. Salvini, ma le cose che sono successe nel Lazio sono cose che hanno un carattere romano, cioè c'entra la romanità? Cioè Batman, lo spreco, eccetera. Mi dica la verità, c'è una questione romana o no? No, non è una questione etica. Sicuramente avere 200.000 a cranio da spendere senza portare uno straccio di scontrino è una roba che magari anzi che sicuramente in Lombardia non si fa. Però con questo non è che i ladri stiano solo a Roma. Anzi, purtroppo sono leggermente diffusi. Che a Roma sprechino più che altrove è fuori discussione. Ma perché sono romani? Un po'? Ma no, perché cioè, certe feste, le feste con le facce di maiale sono cose romane oppure possono accadere anche al nord? No. Possono accadere ovunque, accadono più spesso a Roma, però ne prendo perché atto. Perché accadono più spesso a Roma? Guardiamo i bilanci dei per gruppi. Una questione di cosa? Ma non è una questione etnica, lei mi vuol far dire che etnicamente a Roma spendono, spandono, sono ladri? No, sicuramente in Lombardia siamo meno abituati a certe cose. Il titolo di domani del giornale sai qual è, Luca? Il titolo di domani del giornale è Sallusti va in galera, questo è il titolo. Secondo te un po' ci sta marciando Sallusti, dimmi la verità. Io sono franco in queste cose. No, perché ho visto anche che Feltri, quando rischiava di essere sospeso l'ordine, sai che battaglia ha avuto con Feltri, una volta mi ha detto che era un pirla, un'altra. Feltri era molto angosciato dall'idea di essere sospeso dall'ordine, di perdere il diritto di firmare un giornale. Sai, quando uno è direttore, questa prerogativa, che la possibilità di essere testimone di una squadra e garante di una società è la cosa più importante. Io non credo che ci stia marciando, io credo che sia molto preoccupato e io credo che se passa questa cosa su di lui, mi sforzo di dirlo, può accadere a chiunque. Caro Luca, questa sera mi devi dare una mano perché farò un tentativo con un numero di telefono di una persona direttamente implicata in questa vicenda. Però devi essere con me, al mio fianco, dopo te lo spiegherò nell'intervallo. Domanda. Non voglio svelare nulla. No, stavo dicendo una cosa, mi avete segnato a me. Non era interessante, domanda. Che come sapete mi è molto simpatico, ci siamo persino incrociati a Isola Rossa. Stavo dicendo a Salvini, tu non parlare però delle ruberie di Roma. Sospendi senza cattiveria per Formigoni, dici? Per Formigoni? Quando sentiamo Tanzania, la cartellina dei femmini, non parli per carità di patria. Ma ho detto qualcosa. Domanda. Non rendi conto. A parte il fatto che sulla Lega non è stata provata una cosa di quelle di cui da sei mesi si parla, però ne riparleremo. Però io ho messo la domanda sulla mia pagina Facebook c'era in questo momento. La cartellina dei femmini o no? Telese, posso... Sì. C'era la cartellina. Ma se invece di Sallusti ci fosse un giornalista di sinistra, un Travaglio a rischiare la galera, beh, il sindacato dei giornalisti, no, quotidiani di sinistra. Caso, eh. Ma no, non dico Travaglio, mi sembrano silenziosi gli organi di informazione di sinistra, i sindacati, non è vero su questo. Avremmo le manifestazioni di piazza, ma non c'era mica un'informazione di regime, il giornale di Berlusconi, poi a me Sallusti non sta simpatico, la Santanchè men che meno. Però detto questo... Perché non ti sta simpatico? Perché secondo me non è un prodotto giornalistico come la penso io. Sallusti, vabbè, il giornale non spesso e volentieri non li so. La Santanchè che cos'è? Non ti va la Santanchè? Non mi piace, urla, strepita, sbraita. Poi vabbè, una non che... è che voi non strillate, non strepitate, anche voi della Lega. Ci stiamo impegnando a farlo un po' meno, ma poi non mi piace. Non ti piace la Santanchè? No, ma è una che diceva che Berlusconi tutto il male possibile, poi adesso è una pasdaran, insomma. Ma magari vi ritrovate alleati prima o poi. Ma spero di no. Spero di no a livello nazionale. E con Berlusconi, no. Se torna, se decidi di tornare? Spero proprio di no. Insomma, non è esattamente il nuovo che avanza. Spero, sì o no? Cioè, se c'è Berlusconi, ma che lo chiede a me? No, non ci alleiamo con Berlusconi. Lei è uno dei principali. Me l'ha chiesto, le ho risposto. No, sarà no. Ormai è diventato numero due, tre della Lega. Numero due e mezzo. No. Lo dica chiaramente. Pensasse al Milan, Berlusconi, che ne ha bisogno invece di pensare. Spero che venda. Spero che venda. Basta. No. Da milanista spero che venda. Ma come? Spera lui che venda. E Allegri hanno rotto le palle. Punto. Addirittura. Basta. Assolutamente. Via. Ha dato onore, cioè, per quello che ha dato. Ma può pensare. No. Basta, Berlusconi. Basta. Che deve fare? La Ferrero. Ma nemmeno il Milan può pensare. Ma io avessi i suoi soldi, avessi i suoi anni, me la godrei da qualche parte. Avessi le sue case, ma vado in Sardegna a pescare. Vado nell'isola là, nella mega isola. Basta, a me piace politica, pescare. Basta politica. E ritengo che abbia dato. Ha fatto tanto. Nel bene, nel male, ha fatto tanto. Onore al merito, riconoscimento. Allora, basta. Facciamo un po' di battaglia sulle adozioni gay, che Salvini è totalmente contrario. Ha portato in consiglio comunale non so che cosa, delle bamboline. Ma ancora, cosa hai portato? Dei bambolotti, perché i bimbi non sono dei bambolotti. Voi siete a favore? Totalmente a favore. Qual è il problema dell'adozione gay da parte delle coppie gay? Spiega. Secondo me, un bimbo ha bisogno di una figura materna e una figura paterna, di un uomo e di una donna. Invece nell'orfanotrofio sta bene. No, ma che orfanotrofio? Ci sono 45.000 coppie eterosessuali che attendono un bimbo da adottare, quindi non c'è la cosa. Si sveltissero le pratiche per l'adozione alle coppie con mamma e papà. Il Parlamento ci siete voi. No, ma sto dicendo. Difensori della bene, famiglia. Perfetto. Dai, non lo fate. No, ma guardi, lei parla non con un divorziato. Telese, parli con un divorziato che va a messa due volte all'anno. Quindi la mia non è una battaglia integralista vaticana. E quindi anch'io ho messo in difficoltà, fra virgolette, mio figlio uscendo di casa. Punto e a capo. Detto questo. Ma se tu pensassi a tuo figlio educato da una coppia gay, ma non pensi? Ci penso neanche. Perché che canone? C'è bisogno di una figura paterna e una figura materna, di un uomo e di una donna, cioè, preferibilmente se che non litigo. Ma non ci penso neanche. Se la tua ex compagna ti dice mi sono innamorato di una donna, ma peggio che andare di che notte, cosa, chiedo io, vedi tu. Ma no, vedi ma tu. Dai, su, ma questa qua è una cosa pazzesca. Posso chiedere una cosa? Secondo me non è progresso, non è le due mamme. Cioè, se la tua ex compagna ti dicesse: andrei dal giudice, mi sono innamorato di una donna, sono con una donna, toglieresti il figlio? Assolutamente non ci penso un attimo. Di togliere fortunatamente la mia ex moglie non ha questi interessi. Se così fosse, mio figlio preferisco che abbia un papà e una mamma. Ho capito, ma ce l'ha lo stesso il papà e una mamma? Ma che? Ma due mamme e due papà? Perché? Dai, vabbè. Qual ma è no. l'immagine che ti viene in mente? Guarda, io sono disposto qual a... Qual è l'immagine che ti viene in mente in questo caso? Perché non può vedere magari il due donne nello stesso letto. La confusione, ma no, ma chi se ne frega? La confusione, chi è la mamma? Chi è il papà? Capito, ma se la tua ex compagna si innamorasse di qualcuno, che cosa ci sarebbe di male? È una libera scelta sua, il bimbo viene con me. E poi tieni Luca, rapporti con la mamma. Reagisce a questa ma cosa. Ma penso Luca, che prego. Direbbe lo stesso la mia ex compagna. Se il papà si scoprisse gay a 40 anni, libero di farlo, sua libera scelta, e però sarebbe un problema per il bimbo. Bene, posso fare una domanda? Ma io non pretendo che Salvini abbia letto Pubblico, in cui abbiamo pubblicato una storia molto bella di una famiglia omoparentale. Cioè c'erano 3 bambini che abbiamo visto felicissimi. Che crescono senza problemi. Crescono senza problemi. Sono fra l'altro uno studio fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che crescono anche eterosessuali, cioè non si trasmette per via ereditaria l'identità sessuale. Allora? E quindi io vorrei chiedere a Salvini, ma molto praticamente, prima di tranciare questi giudizi, gli è mai venuto in mente di dire boh, vado a vedere una di queste famiglie? Perché parlate sempre molto bene. No, ma guardi, no, risponderà dopo. Un'altra domanda: preferisce Renzi o Berlusconi? Sì, no, preferisce Renzi o Berlusconi? Mi dica la verità. Il terzo, qualunque esso sia. No, dai, o Renzi o Berlusconi? No, meglio, comunque meglio Renzi. No, Berlusconi lo metto fuori quota. Renzi, fuori quota. Renzi non mi dispiace, però è di là, insomma. È di là che rappresenta, dire, di là. Rappresenta il nuovo del vecchio. Rappresenta il nuovo, ah, in un, è un democristiano Renzi sostanzialmente. Ma però quantomeno per questione anagrafica è meglio Renzi di Berlusconi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. La cosa più straordinaria però di queste ore, caro Luca, è questa: un'intervista al quotidiano nazionale Der Batman, il federale di Anagni, insomma Fiorito, durante una cena con De Robertis, che è un giornalista, ha scritto un libro sulle regioni, sugli sprechi delle regioni. Un po' di prosciutto, chiede il cameriere al federale di Anagni. Abbiamo Patanegra, San Daniele e Toscano, tutti e tre, risponde Batman seduto a capotavola. E basta con sto Batman, anzi ora vi racconto una barzelletta. C'è un ubriaco che di notte incontra una suora e allora, boom, un colpo in testa, boom, un calcio negli stinchi, boom, un cazzotto nello stomaco. Poi si abbassa e gli dice: a Batman, te credevo più forte. Beh, è il numero uno, è il numero uno, è il numero uno. Come sai, l'ho avuto, un corpo a corpo è stato. Sì, sì, sì, dai, avete combattuto come leoni, Senti questa, la frase evidente è stata: lui mi ha detto, Telese, la rispetto. Ho detto: guardi, non mi rispetti. Sì, non mi rispetti. Sì, non mi rispetti. Sono diventato il mostro da Anagni. Se e gli dava male, con che lui sa, la villa, parlando lui, era diventato un trilocale. L'abuso edilizio, ma beh, era del 73. E la casa, no, vabbè, ma in affitto pago un sacco di soldi. Alla fine c'è quasi venuto voglia di dargli un aiuto economico. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, con noi Matteo Salvini, europarlamentare della Lega. Nel giorno della condanna di Sallusti definitiva a 14 mesi di carcere, un signore va in carcere perché ha scritto una cosa pesante sull'aborto. Dopo vi ripeterò la frase: giusto, non giusto, bisogna rispettare la legge. Lui ha detto che non chiederà la grazia, che non vuole l'affidamento ai servizi sociali, però pochi minuti fa il giudice, il capo della Procura di Milano, ha detto, brutti liberati, che la Procura di Milano ha sospeso l'esecuzione della pena, cioè in carcere sostanzialmente non ci va, non ci va. Un'altra frase del Batman: ma l'hai vista in trasmissione quella deputata del PDL come mi guardava strano? Si riferisce alla Ravetto. Mandava i messaggini alle amiche e diceva che di gente come me il PDL deve fare a meno. Io però ci ho messo la faccia, ho preso i voti e mi sono fatto eleggere. Quelle sono state designate da Berlusconi e non mi fa di altro, che è meglio, va. Mi hanno voluto far fuori, allora, dopo che mi hanno messo di mezzo, sono stato io a dire un po' di cose. Le ostriche dell'amante di Battistoni, che poi non è manco un granché. Beh, siamo al top qui, questo Batman lo voglio editorialista alla Zanzara ogni giorno. Odia. No, ti posso dire che ha detto i Battistoni? Che ha detto? Noi gli abbiamo detto, vabbè, ma lei lo odia. No, non lo odio, perché l'odio è un sentimento irrazionale, io lo disprezzo. Beh, questo è il Batman, questo è il Batman, i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer, che è la sorella della moglie di Telese, ma questa è una piccola parentesi. E che cacchio c'è? Non c'entra nulla, però bisogna sempre ricordarlo, che ti frega, ricordiamo, non c'entra niente, mica lo dicevo, mica ti devi offendere. Ma se il Batman chiedesse l'iscrizione alla Lega, cosa faresti tu, Salvini? In Siberia. Beh, in Siberia. Addirittura in Siberia. In un igloo senza pane, senza acqua, dai te, adesso... Metti che schiede... Ma il problema non è quello che ha fatto, è che non conosce la misura, cioè come fai a farti vedere in giro dopo quello che... Come fai a parlare, andare in televisione? Beh, perché... Ma scappa! Ma che scappa? Nuova Basta Zelanda. Lì a combattere come un leone. Ma di che? Ma è lì a combattere, a difendersi. Ma uno combatte se pensa di avere un minimo di ragione. Beh, lui pensa magari la vergogna non sono i quattrini, le ostriche. La vergogna è che non abbia ancora vergogna a farsi vedere in giro. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il GIP di Taranto boccia il piano di risanamento dell'Ilva, non che al minimo di produzione sale la tensione tra gli operai. Napolitano, l'Europa ci chiede la legge anticorruzione, il rigore, cominciare dai ceti più abbienti, sempre peggio i consumi ai livelli di 20 anni fa. Borsa di Milano giù sullo spread per i timori del piano Spagna, scontro a Madrid contro le nuove misure, sciopero generale, tafferugli in Grecia. Dalla conferenza delle regioni proposti tagli alle spese della politica, la regione Sicilia conti pignorati per un ricorso, stop agli stipendi. La Cassazione conferma la condanna a 14 mesi al direttore del giornale Alessandro Sallusti per diffamazione, reazioni bipartisan. Sfiorata a Milano una collisione in metropolitana, lieve tamponamento tra due treni, decine di feriti, nessuno è grave, tanta paura. Cesare deve morire, il film di Paolo e Vittorio Taviani rappresenterà l'Italia alla selezione per il premio Oscar come miglior film straniero. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria. Beh, l'incredibile confessione di Rosso, deputato del PDL, ex consigliere regionale in Piemonte, il quale si è un po' pentito oggi. In realtà dice: un consigliere della regione Piemonte 5.000 euro, un consigliere comunale, adesso non ricordo bene. Regionale. Prende 5.000 euro per stare in ferie, di rimborsi, sentite. Tutto si è concentrato soltanto sul Lazio. Ah no? Cioè, io racconto una vicenda che mi è capitata personalmente. Ospito a casa mia, a Sestrier, un mio amico consigliere regionale. Non ce l'ho neanche. Questo qui vedo che tutti i giorni va a farsi firmare una cosetta da un documento da un consigliere comunale di Sestrier. Non so cosa serve sta roba. Poi alla fine della settimana bianca questo qui mi fa capire che ha guadagnato 5.000 euro in più. E dico, ma come hai fatto a guadagnare 5.000 euro per aver fatto una settimana bianca a casa mia? Il riassunto dei rimborsi, sentite un po'. Ogni giorno il consiglio regionale del Piemonte paga l'indennità come se fosse andato a fare tutti i giorni consiglio regionale, per il fatto di essere andato a fare la settimana bianca a casa mia, ma essersi fatto firmare da un consigliere comunale il fatto di essersi spostato a Sestriere. Poi paga l'indennità di missione a costo chilometrico, cioè da San Germano a Sestriere e ritorno tutti i giorni, quindi questo aveva guadagnato quasi 1.000 euro al giorno per essersi venuto a fare una settimana bianca a casa mia a Sestriere. Ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma dirti questa roba qua, ti piace così, va bene. Sant'Acchia ha fatto il tizio medio, voleva dire una padaria indipendente, voleva dire quello, voleva dire uno, era il numero uno. Grazie per questa spiegazione. Allora abbiamo capito tutto. Ma fa culo, Cruciani, stronzo, Cruciani di terra. Di che cosa vive? Di che cosa vivo? Oltre a fare i circhi. Dei soldi che mi passi tu facendo il finocchio per strada, il travestito, no? Ormai sei fuori dalla storia, Bozzo. Ma va là, coglione, ma stai scherzando? Ormai sei fuori della storia, come giornalista, come tutto. Ma guarda, ormai sei non conti più niente. Un giornalista che può andare a fare gli scartini. Non si sa da chi riceve i fondi. Ha fondato un partito, ha salvato il suo simpatico Deretano, Berlusconi e ora però ci viene pure a fare la morale dicendo che senza le sue battaglie io sarei morto. Questo mi fa andare ai matti. No, tu sei un cretino e continui ad essere cretino. Vabbè, quello che è successo, è andata così. 800 24 00 24, chiamate se volete sapere qualcosa. 800 24, su Parenzo. Non fare la fabbrica del fango contro Parenzo. Non è la fabbrica del fango? Che è la fabbrica del fango? Il pezzo d'Italia in questo momento è angosciosamente stretto intorno a un punto interrogativo. Cioè? Perché? Perché? Perché cosa? Lo sai, perché non c'è Davide? Ma ti dirò che sulla mia pagina Facebook non c'è gente che si sta suicidando per questa assenza, È la pernacchia di Davide, Chiamiamo la persona che dobbiamo chiamare, va. Caro Luca, adesso la telefonata è importante. Lo annuncio qui, chiamiamo casa Cocilobo. Ecco. Il giudice. Sei lui poi, Pronto? Buonasera, dottor Cocilobo? Sì. Sì, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, il Sole 24 Ore. Sì, buongiorno. Scusi, in questo momento non posso. Possiamo sentirci fra un pochino? In questo momento sono proprio un po' malpreso. Sì, lo so. Le posso fare una sola domanda? Mi dica. Che cosa ne pensa di questa sentenza di pochi minuti fa che ha condannato? No, penso assolutamente nulla, non ho... È soddisfatto? Ma soddisfatto, guardi, è una parola grossa, cioè nel senso che sei soddisfatto che una persona finisca in galera è una... A parte il fatto che poi non credo che sarà questo, ma comunque... Io cioè non, pensa non, che non sia stata fatta giustizia? Da persona, non sì. Io sono solo... L'unica cosa che a cui tenevo è che fosse ristabilita la verità dei fatti, punto e basta. Dunque non pensa che sia stata fatta giustizia da un certo punto di vista? No, no, non, io non dico che è stata fatta giustizia, non dico niente, non ho emesso io la sentenza, quindi sì. Io sono la persona offesa, non ho commenti da fare. Davvero. Però 14 mesi non sono eccessivi, 14 mesi di carcere secondo lei? Ma guardi... Tutti sì, pensano, molti pensano che sia una pena eccessiva, 14 mesi di carcere per un articolo. Lo pensano, è quello che penso io, però ha poco rilievo, perché nel senso che io sono, da questo punto di vista, la mia opinione vale come quella di un'altra persona. No, però è importante la sua opinione, cioè sapere se lei considera 14 mesi di carcere per un articolo una cosa eccessiva. Io non sto dicendo che è eccessiva, lo sto chiedendo a lei, secondo lei è eccessiva o no? No, guardi, io in generale ritengo che dovrebbero forse essere studiate delle soluzioni diverse, in effetti, ripeto, poi è molto difficile parlarne in generale, capisci? Perché non ha rimesso la querela lei a un certo punto? Non era soddisfatto del primo giudizio? No, io ho la proposta per rimettere la querela, l'ho fatta, io ho chiesto come da dispaccio stampa che abbiamo per l'appunto reso pubblico, io avevo chiesto 20.000 euro da devolvere in beneficenza all'associazione Save the Children. 20.000 euro in più, dice lei. Ma 20.000 euro in più di che cosa, scusi? Di quello che era stato deciso in appello adesso. No, allora, in appello è stato riconosciuto il mio danno, giusto? Sì. Il danno, il ristoro per la diffamazione che... Quanto ha preso lei, scusi, in appello? 30.000? Sono 30.000 euro. 30.000 euro, sì. Lei voleva, diciamo, ha proposto un accordo, 20.000 euro da devolvere in beneficenza. Esattamente. E Sallusti ha rifiutato? Certo. Ma non per una questione di carattere chissà perché, ma perché in sei anni, perché questa vicenda a febbraio del 2013 avrebbe compiuto sei anni, in sei anni il quotidiano Libero non ha mai pubblicato, non dico una lettera di scuse nei miei confronti, ma nemmanco un trafiletto rivolto ai suoi lettori in cui diceva: guardate che la notizia che abbiamo dato nell'edizione del 18 febbraio era del tutto infondata, si è trattato di uno sbaglio del quale chiediamo scusa ai lettori. Questo avrebbe consentito di ristabilire la verità dei fatti, di dare per acclarato che io non avevo ordinato nessun aborto a nessuno, cosa che non potrei fare, soprattutto di essere sollevato dall'accusa di avere commesso un delitto, capisce? Perché scusi, ma lei non ha mai parlato con Sallusti, non ha mai chiesto, non ha mai spiegato le ragioni di quell'articolo, eccetera? Io ho parlato con Sallusti, io ho mandato una lettera immediatamente alla redazione. Comunque andiamo a quello che è successo adesso, cioè lei dice 20.000 euro, chi è che ha rifiutato questo accordo? Sallusti col suo avvocato? Ovviamente Sallusti, non è che gli avvocati... Vabbè, Sallusti, certo. Ha rifiutato questo accordo, 20.000 euro da devolvere in beneficenza. Esattamente. Beh, sì, anche se poi nell'editoriale che ha fatto ieri diceva che i 20.000 euro erano per me, io vorrei avere un aggravante perché io volevo dare con ricatto ulteriore benefici per me, ma per fortuna su questo c'è il comunicato stampa che... è nero su bianco che i soldi non erano chiaramente per me. Io... Cioè lei pensa che ci stia un po' marciando Sallusti con questa cosa? Mi dica la verità. Io non so. Cioè pensa che la sta sfruttando? Ma come si fa a pensare che uno voglia marciare? No, che la stia sfruttando mediaticamente, questa è la domanda. Ma no, ma guardi, io posso dire la verità, secondo me tutta la questione è stata mediaticamente trattata male, cioè, ma anche da voi, anche dalla stampa. Cioè, ma io non me ne sono mai occupato, per cui è difficile. No, ma va bene. No, dottor Cocilovo, però io voglio... Ma guardi, io faccio un discorso di carattere generale, perché porre a una persona una domanda di questo genere, come quello che mi ha posto lei, è veramente riduttivo. cioè non so come dire. No, no, ma ho noi capito benissimo. La cosa che voglio sapere, oggi che è stato condannato a 14 mesi, anche se la pena è stata sospesa, lei dice probabilmente non finirà in carcere. No, la pena non è stata sospesa. Sì, come no, Procura di Milano ha sospesa l'esecuzione della pena, l'esecuzione. Ah, l'esecuzione sì, della pena. Sì, certo, cioè non va in carcere. L'esecuzione della pena. Cioè, secondo lei, lei può dire giustizia è stata fatta per quello che mi riguarda? No, io non dico giustizia è stata fatta, perché io di questo aspetto non mi interesso, cioè non so come dire, non è che qui mi hanno ammazzato un figlio, la moglie, cioè non è questo. Ma e dunque è sbagliato dare 14 mesi a un giornalista, secondo lei è giusto o sbagliato? Ma non ho opinioni. Beh, qualche opinione se la sarà fatta. Come? Qualche opinione se la sarà fatta se è giusto o sbagliato dare 14 mesi a un giornalista. Lei ha querelato Sallusti, si arriva a una condanna di 14 mesi, è giusto o sbagliato questa condanna? No, guardi, io su questo non ho opinioni, io dico soltanto che non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto. E la colpa è di Sallusti che siamo arrivati a questo punto? Ma insomma, voglio dire, se il Libero avesse pubblicato un articolo in 6 anni di chiarimenti, di smentita, in cui ristabiliva la mia dignità professionale, certo, sollevandomi dall'accusa, cioè Libero, ma insomma, scusi, abbia pazienza, Libero ha pubblicato, lei conosce la sentenza, l'ha letta. No, la sentenza. E allora perché mi fa delle domande? No, scusi, ma io non la sto contestando, Ma io neanche sto contestando lei, ma allora io le ribalto la io domanda. Io ho letto quello che riportano i giornali. Allora facciamo una bella cosa, sì. Lei si vada a leggere la sentenza. Adesso me la leggo, la richiamo subito, leggo la sentenza e la richiamo subito, ok? Non la sentenza, lei ricostruisca tutto il fatto. Benissimo. Lei faccia una distinzione tra un infortunio giornalistico e una diffamazione desiderata. Ma io, guardi che io non sto contestando che ci sia stata diffamazione, nella maniera più assoluta. No, ma ho capito. Un attimo solo, la richiamo tra un secondo. Io sto contestando che ci sia una diffamazione, per carità, poi la Corte richiede. No, lei dice la colpa è anche di Libero che non ha pubblicato una riga di scuse. Il problema è un altro, il problema è che quando si pone il discorso sulla pena, qual è la pena giusta per la diffamazione a mezzo stampa? Bisogna, secondo me, distinguere le ipotesi. Il carcere è giusto o no in qualche caso? Oh, Gesù Santo, non lo so. A casa, subito! Io la combatto da ore. Eccoci qui, 800 24 00 24. Che ne pensi, Luca? Del mitico, ma mi sembra che ci sia un po' di pelosità, scusa il termine, cioè non si può dire io non mi interesso agli effetti, ho fatto quello che dovevo, però quello che succede non mi riguarda, ora sto brutalizzando, ma mi sembrava che come uno che suscita, rompe il vaso di Pandora e dice sì, ma io ho soltanto dato una botta a un coccio, no. Sapevi che andava a finire così? Beh, non so se sapeva che andava a finire col carcere. Sul carcere ha detto che bisogna avere soluzioni, bisogna escogitare soluzioni diverse. Dice, non lo buttiamo in galera, però volevo punito. Non ho visto, come dire, il senso, magari è esattamente quello che lui voleva comunicare. Non ho visto il senso di un. Proviamo a richiamarlo? Che dici? Proviamo a richiamarlo. Perché sembra un po' l'idea di Terminator. Allora, Giuseppe Cocilovo è il giudice che ha querelato. Condivido. Conosce la legge Cocilovo, quindi sapeva. Condivido. Che condividi, Salvini? Condivido quello che dice Luca Telese quando dice non lo so. Un giudice. Un attimo, eccolo qua, un attimo. La galera mai per un'idea. Mai la galera per un'idea. Pronto? Eccoci, dottor Cocilovo, sono sempre qui. Scusi, sto guardando il servizio sul telegiornale. Ci sentiamo fra un pochino, le spiace? No, si figuri. La chiamo. Tra un attimo la chiamo. Grazie. Mai la galera per un'idea. Mai. E poi un giudice che viene giudicato da un giudice. Dai, adesso va bene tutto. Un giudice che viene giudicato da un giudice. E quello è il problema. Auguri a qualunque cittadino normale finisca in questa tenaglia. Auguri. Allora, Silvana da Venezia, buonasera. Intanto voglio chiedere ancora a Salvini una cosa prima di lasciarlo. Ed è questa. Scusi un attimo, ma lei ha paura di affidare suo figlio ad una famiglia? Suo figlio, cioè se la sua... Io insisto su questo punto che è fondamentale, Luca. Cioè, Salvini ha detto prima, se io scoprissi che la mia ex compagna con cui ho avuto un bimbo è diventata, diciamo, omosessuale, cercherei di toglierle il mio bambino. Sì. Perché non può vivere bene, non può crescere bene con due donne, giusto? Perché ha bisogno di due figure di riferimento, maschile e femminile. Ma lei pensa addirittura che possa diventare omosessuale? No, che possa imparare delle cose di questo tipo? No, non sono cose che si imparano, si insegnano. Che possa non penso che sia brutte, una malattia. No, libera scelta, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Io penso che un bimbo di 2 anni, 3 anni, 5 anni, 6 anni vada difeso, abbia bisogno di due modelli ben distinti, che sono il papà e la mamma, se vivono insieme bene, se si separano purtroppo peggio per loro, ma che l'importante è che ci siano come genitori, un bimbo non può avere due mamme o due papà. E ricordo che ci sono 40.000 famiglie italiane in attesa. Ma ci sono dei casi in cui i bambini crescono tranquillamente, senza problemi, moltissimi casi. Non è progresso. Questo non è il futuro. Il futuro è la famiglia. Come non è progresso? Non è progresso. Qualcuno mi dice che il progresso è anche la fecondazione per due donne a 70 anni. Avere un figlio a 70 anni non è progresso, è egoismo. Questa gente che c'entra? I bambini a 70 anni se ne può parlare, non c'entra niente questo qua. Ma anche le due donne e due uomini che vogliono adottare un figlio sono egoisti, mettono al centro il loro voler essere genitori, nessuno pensa ai bambini. No, ci sono 40.000 coppie in attesa di un figlio in adozione. Ma questo che c'entra? Che gli diano, e quindi non c'è. Ma io non ho detto che devono essere privilegiati le coppie omosessuali. Non è un modello di riferimento. Le due donne e i due uomini per me non sono un modello di riferimento utile per la crescita di un bambino. Se lei è al parco con suo figlio e vede due omosessuali che si baciano davanti a suo figlio, che succede? Non me ne frega niente. Non dice niente a suo figlio? No, non è quello il problema. Il problema è poi tornare a casa con i due papà e le due mamme, andare a scuola con i due papà e le due mamme, andare in gita con i due papà e le due mamme. Ma è una questione di culturale, no, non ma è che una culturale? Questione. Ma qualcuno dice che anche le droghe fanno bene, voglio dire, non è che siccome qualche scienziato lo sostiene, allora io mi drogo. Va bene, cioè, il paragone con la droga? Cioè, siccome anche le droghe fanno male, ma siccome le modello olandese, le droghe male. Leggere libere, le coppie omosessuali che fanno quello che vogliono. No, ci sono tanti omosessuali che scrivono su Facebook in questo momento, Fabio ad esempio, non me ne frega niente di adottare. Voglio i diritti col mio compagno, ma c'è anche chi non vuole figli, anche tra gli eterosessuali c'è chi non vuole figli. La mamma e il papà, io non penso di essere arretrato, anzi penso che il futuro siano la mamma e il papà. In Lombardia quando si vota? Nel 2015, spero. Sicuro? Sicuro. Sicuro o no? Cioè, quante possibilità di Formigoni di arrivare al 2015? Me lo dica chiaramente. 50%. Secondo... Ah, 50%. E da che 50%. Dipende? Da che dipende? Da lui in parte, se riesce a dare uno sprint all'amministrazione della regione, e da incursioni esterne, evidentemente. Qua ci sono 38 indagini aperte. Se una dimostrazione di colpevolezza c'è, Formigoni salta, evidentemente. Ma perché non vi dimettete? Cioè, perché cosa? No, l'opposizione... Ma l'opposizione fa bla bla bla ma non si dimette. Perché non noi si come dimette, Lega no? Se c'è una prova di colpevolezza ci dimettiamo, ma fino a che non... Fino prova a che di colpevolezza dubbio, sospetti. Rinvia a giudizio, se c'è rinvia a giudizio vi dimettete? No, una condanna anche in primo grado. E rinvia a giudizio no? Rinvia a giudizio no. C'è rinvia a giudizio per vendola, per errare. No, non mi basta rinvia a giudizio. Se uno rinvia a giudizio a Salvini perché secondo qualcuno è un ladro, non va. Se provano che Salvini è un ladro, Salvini va a casa. Grazie a Matteo Salvini. Grazie a voi, Luca. Forza Milan. Luca? Sì. Eccoci qua. Ti ha colpito Cocilovo a te? Ti ha colpito Giuseppe sì, Cocilovo? Mi ha colpito questa asettica. Fra poco... Feroce lentezza nel schernirsi e dire chiamo fra poco, comunque è successo, era una conseguenza. Cioè, qui c'è un uomo che va in galera per un esposto. Non ci va, non ci va. C'è una polemica enorme e lui discetta come se stesse parlando di insetti. Essendo un magistrato, conosceva benissimo, benissimo le conseguenze di quello che faceva. Quindi io preferirei uno che dicesse sì, lo volevo mandare dentro, punto. Sì, anch'io preferivo uno che diceva io sono soddisfatto, lui l'ha detto. Soddisfatto sarebbe troppo, però io lo volevo mandare dentro, sapevo esattamente questo, penso che abbia sbagliato, via Dio, meglio questo del fare il burocrate solone. Silvana da Venezia, 800 24 00 24. Silvana. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Io telefono per il fatto del dottor Parenzo che non partecipa più alla Zanzara. Nella vita si litiga, nella vita si litiga, si discute, nella vita si litiga, si discute, ci si arrabbia, forse ci si riconcilia o forse no, succede quando due persone vivono intensamente una storia d'amore, in questo caso una storia radiofonica d'amore, può succedere, ci sono dei periodi così, è vero, abbiamo litigato, questa è la realtà dei fatti è questa, abbiamo litigato anche in maniera pesante, io gli rimprovero alcune cose, forse lui me ne rimproverà altre, questa è la situazione, questo è il punto, cioè lui me ne rimprovera poche in realtà, comunque insomma. Uno vede tra due amici, come dice lei, sottolinea il fatto è che tante volte... Anche io e Luca abbiamo litigato tempo fa per quella vicenda della Marcegaglia. Cioè... Ah, a proposito, Il dottor Telese. Lei adora il dottor Telese? Ma le piace fisicamente? Le piace fisicamente? Il direttore di pubblico? E perché no? Dobbiamo essere noi donne a decidere se ci piace fisicamente un uomo. No, o ma meno. Un po' questa sua rotondità. Le piace? Perché no? Perché potrebbe no? Perché essere no? Anche molto sensuale. Molto, potrebbe essere molto sensuale. Vedi, Luca, che tu manchi da troppo tempo alla Zanzara. Sembri impazzito di gelosia quando senti la voce, voce di flautata, intelligente e colta, che esprime preferenze diverse dalle tue. Scusa, fatemi una ragione. C'hai tante vallette e tante fan, vediti con le groupies. Questa signora così colta e intelligente ha una simpatia per me. Grazie. Allora, Barbara, ho anche una simpatia per il dottor Cruciani. Vabbè, quello però adesso ho compromesso tutto adesso. Questo non si può, le due cose non sono compatibili, scusi. Barbara, ma guardi, dottore, Barbara da Genova. Silvana, scusi un attimo, devo dare spazio a Barbara da Genova, eh. Signora Barbara, pronto. Buonasera, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Volevo farle sentire una cosa prima di iniziare l'intervento. Spero che si senta. Vabbè, non si sente nulla, mi spieghi che cos'è? Ma che cos'è? L'inno alla gioia, cos'è? È l'inno alla gioia, è l'ode alla gioia perché non c'è più Parenzo. Mi ha dato una grande gioia. E come mai? Anche se è rificciato Telese, che voglio dire, ce l'avevamo tolto dalle scatole e invece è ritornato lui e tutti i suoi chili di troppo. Ma lui adora la battaglia, Telese, per cui più lei lo insulta, più lei lo tratta male, più lui gode, è un masochista. Ah sì, è un masochista, vabbè, allora farà anche il bondage, visto che è così di moda. No, bondage adesso addirittura, cioè ormai fa il direttore, ormai è diventato direttore, è diventato importante, direttore di pubblico, lo vado a comprare ogni tanto. Lo so. Lo compra? È una scesa. È una scelta che certo che è una scelta. È un'ascesa, quello che non può una fare scesa, fisica, una è scesa. un'ascesa. Comunque no, Parenzo era insopportabile. Perché? Dalla voce alle imitazioni, alla volgarità degli interventi, all'eccessivo schieramento, anche se lui diceva di no, però. Ma era quale schieramento? Adesso non mi tratti male, Parenzo, perché i nostri litigi hanno altre origini, non sono certamente litigi di natura politica, guardi, le assicuro, non me ne frega nulla di queste cose. No, questo qui non c'è dubbio, perché penso, io sono una fedelissima ascoltatrice, purtroppo l'ascolto sempre in deferita, quindi non posso intervenire, ma so che lei è uno spirito libero, finalmente, in radio. E però Parenzo, anche se non lo so se non se ne accorgeva della sua estrema faziosità, ma qualsiasi cosa venisse da una parte era sempre tollerata e anzi difesa, mentre altre cose erano sempre osteggiate. Però al di là di quello è proprio un'antipatia anche non fisica, perché fisicamente non sono non è interessante, ci mancherebbe altro. Ecco, appunto, è proprio un'antipatia dalla voce, ripeto, al modo di fare estremamente volgare. Quindi la ringrazio di questa lite. Va bene, grazie a lei. Lucio da Verona, lei non deve ringraziarmi per la lite, non è che si ringrazia una persona per la lite, ma che discorso è? Su, Lucio da Verona. Sì, buonasera, buonasera. Dica, Cruciani. Dica. Allora, prima le un attimo solo, vediamo il giudice se risponde, Telese. Luca? Sì, sto ascoltando. Eccoci qua. Dottor Cocciovo? Ah no. Pronto? Eccoci qua, dottor Cocciovo, mi scusi. Oh, buongiorno. Eccoci qua. Allora, le vuole fare una domanda anche Luca Telese a proposito della vicenda. Lo conosce il signor Telese? Sì, lo conosco il signor Telese. Lo buonasera, scusi se abbiamo parlato in contumacia, ma io sono rimasto un po' colpito da una sua freddezza. Ci ho avuto come l'impressione che lei in qualche modo dicesse, mi chiarisca se ho capito male, beh, in fondo io avevo il dovere morale di fare questa denuncia, se poi questo percorso porta in galera o alla condizionale, io non avevo il dovere morale di fare la denuncia. Io come prima cosa ho chiesto a Libero 6 anni fa la rettifica di questa notizia e non c'è stata. Mi hanno mandato una lettera che io conservo ancora, in cui io oltretutto avevo mandato questa richiesta di rettifica attraverso neanche un penalista ma un civilista, attraverso l'avvocato Weigman. E la risposta qual è stata? La risposta è: per noi è tutto vero, arrivederci, buongiorno e buonasera. E poi si aspettava una rettifica, una lettera? E poi prima che scadessi i termini per la querela ho fatto la querela, perché scusi, se lei ha... Se lei viene accusato di omicidio... Trovo un po' peloso, ma se io a un certo punto andassi a dire che lei ha commesso un grave delitto, voglio dire... Ma io non sto contestando... Lei si sentirebbe diffamato oppure no? No, ma sì, ma io non le sto contestando il diritto di fare... Ma allora la domanda mi sembra... No, però scusi, la conclusione di questa vicenda... Non è... non è un dovere morale. Che significa un dovere morale? Io ho un dovere morale di ristabilire la verità dei fatti rispetto a chi? Rispetto ai miei figli, rispetto a mia moglie. Che lei non ha ucciso nessuno, certo. Che lei non ha ucciso nessuno. Non ho ucciso nessuno, che io non ho ordinato l'aborto di nessuno e che io non merito la pena di morte, ha capito? No, ma io l'ho capito problema. Perfettamente, sono anche d'accordo allora con lei. Non è un problema di dovere morale. Io ho chiesto prima una rettifica. Io ho chiesto prima una rettifica attraverso un avvocato civilista. Sì. Mi è stato risposto picche. Ho fatto una querela e ho atteso pazientemente, perché sono passati 6 anni, che questa vicenda si chiarisse. C'è stato un giudizio di primo grado, c'è stato un giudizio d'appello. In tutto questo periodo il libero, il dottor Sallusti, le persone interessate non hanno mai detto niente. Ho capito. Scusi un attimo, lei non la ritiene? Anziché. Anzi che cosa? Anzi, la questione, una diffamazione deliberata. Sì. Deliberata, mi spiego, perché questa è la differenza. Sì. E questa è la differenza. Una diffamazione deliberata? Come? No, è diventata un attentato alla libertà di stampa. Ah, lei dice, una diffamazione si è trasformata, questo no, trovo assurdo. Non una diffamazione, perché vede, la diffamazione è quando uno pubblica una notizia che non risponde alla verità. Sì. Mi spiego, il giornalista può incorrere... Invece la diffamazione deliberata è una cosa diversa, dice lei, no? Eh beh, sì, perché quando la notizia che è partita dalla stampa, il giorno prima, in serata viene chiarita dalla procura che smentisce che ci sia stato, attraverso l'acquisizione degli atti, viene chiarita dall'agenzia, come si chiama la vostra, Dispacianza, sono stati in quella giornata 10 Dispacianza. E lei dice, nonostante questo viene pubblicato? L'ultimo Dispaccio ANSA era conclusivo. C'è stato il servizio al telegiornale in cui si diceva che era tutta una bufala. Il giorno dopo, l'unico giornale in Italia, perché io ho acquisito tutta la rassegna stampa di tutti i giornali d'Italia per fare la valutazione comparativa, l'unico giornale in Italia che è uscito con questo tipo di articoli, tutta la seconda e è tutta libero, la terza è libero. Pagina, quindi non un trafiletto che il direttore può non controllare, che il direttore può sfuggire. Tutta la seconda e tutta la terza pagina. Se lei ha voglia di Ma ho capito benissimo, però io le chiedo una cosa, dottor Cocilovo. Allora, è uscita, quindi questa non è una diffamazione nel senso di dire errore. Però le chiedo una cosa, ripeto, torno a chiederla. È giusta la pena detentiva? No, questo il punto. No, non lo so, questo non mi interessa. Ma come non le interessa? Come può non interessarle la conclusione di questa vicenda? Ma che cosa mi interessa a me? Se Sallusti finisce in carcere, a lei non interessa? No, mi interessa, come può interessarmi che ci finisca il figlio del mio custode, Sallusti, ma certo, ma non perché sia Sallusti, che una persona finisca in carcere per un articolo scritto, lo ritiene giusto o no? O in alcuni casi no, può essere... non ho opinioni su questo, non ho opinioni. Come fa a non avere opinioni? Questo ha un'opinione, io non ho opinioni su questo, evidente, sulla base della legislazione vigente, può finire in carcere, può finire in carcere. La decisione del Tribunale della Corte della Cassazione, che evidentemente la pena che è stata inflitta è una pena che risponde alla legislazione in vigore. Ci possiamo baciare, se vuole dire lui. Ogni tanto dobbiamo anche guardi insieme. Qua. Eccoci qui, 800 24 00 24, La Zanzara, Radio 24, Serafino da Ravenna, buonasera. Buonasera. Dica. Casa Sallusti è tutto un blef. La cosa scandalosa è che la metà dei giornalisti italiani vi dia solidarietà, come è stato ovviamente dimostrato ieri mattina nella vostra trasmissione, quella dalle 10 alle 11, e come ha detto poco fa il giudice Cocilovo, Sallusti aveva 100 modi per evitare quello che in ogni caso fra l'altro non gli accadrà. E il caso l'ha montato a posto, perché succede, il più grande dispetto che gli stanno facendo in questo momento è quello di non mandarlo in galera. È un caso montato ad arte. Cioè un caso montato ad arte da Sallusti per fare cosa? Prego? Un caso montato ad arte per farsi pubblicità, per finire sui giornali, ma non è che ha bisogno di questo Sallusti, un caso politico per fare una battaglia contro i giudici, perché ha fatto di tutto per non rimediare alla questione, ha avuto anni e 100 possibilità quella di pagare, quella di pubblicare sul suo giornale la revisione delle cose. Ecco, non lo fa apposta. La cosa scandalosa è che questo stia diventando un caso nazionale contro la libertà di stampa, va in galera perché espresso un'opinione che non è vero niente. Questo la sta cercando, è una cosa palese, palese, che sta aprendo la questione, facendo capire un po', ma la cosa scandalosa, davvero scandalosa, è che si vada sui titoli, si va in galera perché ha espresso un'opinione, non è vero niente. La ringrazio, Serafino. Ferruccio da Torino, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. Dica. Io volevo intervenire su Vendola. Come, scusi? Su Vendola, sì, la sua, sì, voglia di avere un figlio. Sì. Ma quando, vabbè, al di là del principio generale che sì, va bene, le coppie gay possono avere dei figli, ma la domanda che voi fate se è meglio un figlio in un ragazzino in orfanotrofio oppure adottato da una coppia gay, ma se finiscono i ragazzini in orfanotrofio come fanno gli omosessuali? Se finiscono i ragazzini? All'orfanotrofio, cioè se un giorno non ci sono più orfani, sì, che si fa? In che senso, scusi? Cioè non ci sono più orfani perché tutti diventano gay, non ho capito. No, non ci sono più orfani nel senso che non muoiono più i genitori, i bambini non vengono abbandonati. Vabbè, meno male, no? Cioè, ecco, significa, e come fanno i gay? Come fanno a questo punto? Non adotta nessuno, che vuole che le dica io, Ferruccio? Ma non è che ci deve essere una corsia preferenziale, io dico. Ma scusi, ma sta scherzando? Ma allora, la corsia preferenziale, nel momento in cui il principio è generale, cioè finiranno gli orfani, non si può più adottare nessuno, li creiamo ad arte perché la loro voglia di avere dei figli ci sarà comunque. Ho capito, ci sarà la voglia di avere figli, evidentemente se non ci saranno più figli da adottare nessuno adotterà più. Ma qual è il problema che lei si pone? Non ho capito, Ferruccio, mi spiega. Il problema è dire una cosa di carattere generale ma poi metterla in pratica. Se una coppia eterosessuale vuole avere un figlio in adozione, a parità di reddito chi è che vince tra i due? Lei chi preferirebbe? Ma non lo so, ma dipende dalle situazioni. Cioè non... in alcuni paesi queste norme funzionino senza che ci sia una disputa, una controversia, una lotta tra famiglie formate da un uomo e una donna e famiglie formate da due uomini o da due donne. Non è che si scannano per avere un figlio. Ci si iscrive, come dire, in una lista. Adesso ci sono delle procedure che non conosco nei dettagli. Non mi sembra che siano procedure che diano, come dire, la stura a un conflitto tra famiglie di omosessuali e di eterosessuali. Non è così. Ma c'è gente che litiga perché danno la casa agli immigrati piuttosto che agli italiani. Vuole che non si litighi per avere un figlio. Chi non può avere un figlio ha dei problemi. Vabbè. Non è che dice, io non posso averlo, però ce l'hanno due gay. Non è che è una cosa così che uno dice, ma sì, è più grave che litigare se affittano la casa popolare agli extracomunitari piuttosto che agli italiani, secondo me. E poi l'altro problema che mi pongo è, se evidentemente in altri paesi lo fanno, avranno una sensibilità diversa, ma vuol dire essere meglio? Avere una sensibilità diversa. Io ma chi l'ha detto che significa essere meglio? Forse se in Italia non siamo d'accordo in tanti, perché sì, mi sembra che siano in tanti che non siamo d'accordo. Ma lei non è d'accordo, ma è legittimo non essere d'accordo. Io non ma sto non condannando solo io, No, ma, credo... ma, è le... ma è... io credo che sia anche la maggioranza degli italiani, credo. Allora, credo. Non si fa e basta, per il momento non si fa, poi saremo antiquati, saremo vecchi. Sì, però sì. A me tutto sommato mi piace così, come diceva il buon Parenzo, mi piace così. A lei piace così, Ma per il momento direi di sì. A me, io non ho nulla di per sé contro i gay, sì. Ma su certe cose non contribuiscono molto alla tribù. Ma che vuol dire? Ancora questa stronzata che non contribuiscono, scusi, al progresso, alla procreazione, alla moltiplicazione, no, eccetera, ma, eccetera. No, ma su, dai. Il problema del matrimonio, siamo d'accordo che è solo di carattere economico. Ma che vuol dire solo di carattere economico? Mi scusi, che vuol per dire? Per l'eredità. Perché, sa, se io non sono sposato al momento, ma se mi sposo, al momento mia moglie non... Se mancassi io, mancasse mia moglie, io non pagherei costi per l'eredità. Allora? E la differenza tra essere sposati come gay o no... Sì. È solo questa, avere la reversibilità della pensione. Ma no, ma perché la deve ridurre a una questione economica? Scusi, Ferruccio, lei è veramente... Cinico. Ma no, ma cinico, lo cinico lo sono anch'io. Ma che vuol dire? Ma non è solo questo. Ci sono delle persone, mi guardi, che hanno desiderio di sposarsi. Perché questo deve essere impedito? Desiderio di avere un figlio. Perché questo qua deve essere impedito quando ci sono le condizioni? Non è che tutti i diritti, non è che tutti i diritti e tutte le voglie devono essere per forza esaudite. Per io non dico questo. Ma siccome ci sono paesi che l'hanno sperimentato e ci sono i bambini che crescono tranquillamente, evidentemente si può fare tranquillamente, non ho dubbi. E allora? Però qui quando voi però parlate... Ferruccio, scusi un attimo, devo dare la parola a Beppe da Rimini, la ringrazio. Beppe, dica. Sì, salve, mi sente? Vada, vada. Guardi, io sono indignato sulla Romagna. Mi sono rotto, posso dirlo, veramente le palle di tutto quanto. Il signor Sallustri, di cui io tra l'altro faccio parte, diciamo, della sua stessa linea politica, non è possibile che un giornalista sputtana, mi scusi il termine, delle persone e poi venga sempre impunito. Cioè, qui ormai siamo nella nazione dell'impunito. Ognuno fa, poi fa la predicussa, ho sbagliato, forse sì, no, e perdoniamo tutto. Allora, quando tu sbagli, devi pagare, hai rotto le palle. Cioè tu, perché loro, i giornalisti, specialmente, quando devono fare gli articoli per rovinare le persone, le fanno a caratteri stracubitari. Poi quando devono pagare, quando invece... ci sono, neanche scusi il termine, gli annunci mortuari sono più grossi. Allora, basta, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Io sono d'accordo su questo, sono d'accordo su questo. Una cazzata, ne devi essere responsabile. Perché non puoi rompere e rovinare le persone, tutte le volte essere impunito. Questo vale per il signor Sallustri e per tutti quanti. Sappiamo l'Italia quanto è bella ormai, però gli italiani, e mi spiace per questo, non si sono rotto, mi scusi il termine, i coglioni a dovere. No, ma io lasci perdere adesso gli italiani che si rompono i coglioni. Lei ha espresso un concetto molto chiaro. Lei ha detto, spesso le persone, i giornalisti con i loro articoli producono dei danni, giusto? Esatto, esatto. E per questo grossi. Danni. E per questo bisogna che ogni tanto paghino. Ora, io però faccio un passo in più. È giusto che paghino con il carcere, sì o no? Ma secondo me, guardi, il carcere, non le spiego la mia storia. Il carcere, ma lasci perdere la sua storia, a meno che non il sia... Il carcere, il signor Sallustri, non ci andrà mai. Il carcere... Cioè lei dice che sta sfruttando questa situazione. No, certo, è chiaro. Il carcere, il signor Sallustri, non ci andrà mai. Ci fa quello che ruba, mi scusi il qualunquismo, le mele. Però Sallustri, in carcere non ci Sallusti, va. Sallusti, fa di poteri forti. Ma quando cazzo ci va in carcere Sallustri? Ma quando? Sallusti, no Sallustri, ancora. Sallusti, sì. Ho la bocca forse un po' impastata. Bisogna chiamare Parenzo per autombula. Ma hanno rotto veramente, io sono veramente indignato per tutto quello che sta succedendo. Cioè, la gente sputtana, rovina, non si fa niente. Quello ruba, niente, si ricandida. Ma cioè, lei dice che c'è anche una casta dei giornalisti che si è mossa, che non si sarebbe mossa per un poveraccio? È una casta che prendono i soldi per le interviste, le prendono, lo sanno, lo sa tutto il mondo. Non parliamo poi che io domani mattina, povero coglione, apro un giornale che parlo dei Paganelli, è un nostro pesce romagnolo, e mi danno la sovvenzione. E questo veramente, siamo di... Ma, guardi. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. La matriosca è laica. Lei quei crociani, lei vero? Quello che dice sempre traffico, lei vero? Volevo dirle che lei piace molto alle donne. Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. Sì, c'è in omaggio lo sto chiacchierando con uno dei più grandi formaggiari di Roma. Sì, ma non me ne frega niente, tu non stai ascoltando quello che succede alla radio, te ne stai sbattendo le palle. No, a proposito di palle, ma stavo discutendo sul fatto se il Roquefort sia migliore di un formaggio di capra. Maledetto, vedi che Parenzo porta sfiga. siamo qui di nuovo con Luca Telese in diretta con noi dalla, dalla plancia di comando di pubblico. Qui la discussione. Guarda, sono vicino all'artista Manolo Fucecchi che mi sta facendo il riformista social club. Allora, domani, quadro, ma che titolo è su Sallusti? Che titolo c'è? Su Sallusti il titolo lo dobbiamo ancora fare perché stiamo finendo di scrivere il pezzo con l'ultima ora. Beh, adesso ti do il materiale su quel, sul giudice Cocilovo. Intanto Domenico da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera anche a lei, dottore. Vada. Premettendo che non voglio fare il paladino di nessuno, però insomma forse in questo momento prendo l'iniziativa per poterlo dire a lei, però lo vorrei dire anche a tutti i suoi colleghi. Molte volte quando ci sono degli argomenti così seri, sì, l'obiettivo da parte del giornalista che in quel momento sta conducendo la sua intervista, sì, è così intento a raggiungere il suo obiettivo che passa su tutto e tutti. Forse è una deformazione professionale, però io, mi permetto, dottor Cruciani, io adesso stavo ascoltando l'intervista che a più riprese stava facendo al dottore, che a mio avviso è di una squisitezza, di una, insomma, di ma io una non ho mica detto che non è squisito il signor Cocilovo, mai detto, no, che no, dottor Cruciani, vedi, purtroppo lei ha questa abitudine. Io non sto dicendo questo, sto dicendo che sicuramente anche lei, per quanto riguarda il modo di portare avanti le interviste, rispetti, vabbè, forse io volevo fare una piccola prefazione. Lei, prefazione, quelle che si fanno coi libri. Ma no, però scusi Domenico, adesso lei mi vuole insegnare come fare le interviste, va benissimo, lei può anche darmi dei suggerimenti, per carità, però magari ci sono altre persone che potrebbero istruirmi, no? Deve fare audience, insomma fare emergere un messaggio, però faccia capire anche all'ascoltatore quello che succede. E purtroppo incalzare così il giudice, secondo me, non è educato. Che poi, ma a me non me ne frega niente che sia giudice, sia politico. Mi sembra che abbiamo fatto, no Luca, delle domande assolutamente normali, cioè domande assolutamente, come dire, cioè non particolarmente aggressive nei confronti del signor Cocilovo. Gli volevamo chiedere qualcosa sulla pena detentiva per Sallusti, per il carcere, per i 14 mesi. Lui ha detto: mi attengo alle leggi, non ho un'opinione. Che mi sembra strano che non abbia un'opinione. Evidentemente non la vuole esporre, no Luca? Ha comunicato la sua opinione. Non voglio ripetermi, ma la sua replica mi ha ancora più convinto. Lui dice: oh, me l'hanno fatta di tutti i colori. Gli ho mandato replica. Erano due pagine, nessun altro giornale l'ha fatto. Se in fondo questa punizione che io voglio c'è la galera, e galera sia. Basta. Sì, sì. Non è che l'italiano è italiano, eh. Sì, la no, non ha detto, non ha detto è giusto così. Non ha detto è giusto così. È il sottotitolo, ti ricordi che il cuore diceva parla come mangi e c'è la traduzione. Questa è la traduzione di quello che ci ha detto. Ma magari è legittimo, io non lo condivido. Io penso che quella pagina fosse oscena, che quella opinione fosse violenta, ma è un'opinione, non è una diffamazione. Cioè io non ti sto dicendo una cosa che non è vera, non ti sto ingiuriando, ti sto dicendo io sono così stolto che penso che dovresti essere condannato a morte. Secondo me si qualifica già. La frase era questa, se ci fosse però la pena. Posso dirti un'altra cosa importante? Sì, è come se Cocilovo non si rendesse conto che questa cosa non l'ha detta Sallusti, è l'opinione di uno dei suoi. È molto diverso. Cioè, come l'opinione di uno dei suoi? È l'opinione di uno che ha scritto un pezzo. Ah, cioè, ho capito, sì. L'articolo, sì. Il salto logico che questa legge fa, per cui tutti potrebbero essere condannati, che il direttore è responsabile di qualunque riga che c'è dentro un pezzo, è molto pericoloso questo ragionamento. Io proverei a chiamare fra un po' quello che noi sappiamo essere il, o quello che noi sospettiamo essere l'autore dell'articolo. Che dici? Come si sente oggi? Comunque io lo rispetto Cocilovo, vorrei solo che fino in fondo tirasse la conseguenza. Cioè voglio dirvi che sì, se in fondo a questa cosa c'è. Quando la zanzarina. Massimiliano da Milano, 800 24 00 24. È anche vero, caro Parenzo, sì, caro Parenzo, io ho la deformazione Parenzo, professionale. Ma tu sei un criminale. Perché criminale? Perché nella vita si può litigare. Nella vita si può litigare, lo sai benissimo. Fai un appello a Parenzo, fai un appello a Parenzo, fai un appello. Torna, questa casa aspetta te. No, ma fai un appello vero, un appello serio dei tuoi a Parenzo. Fai ritrovare te stesso, perché noi non ti vogliamo perdere. Massimiliano, dica, bello, bene così, bene così. Buonasera ai due direttori. Ma io non sono direttore di nulla, è Telese che è diventato direttore da poco, e lo ripete ogni piezo spinto. Adesso non vorrei che diventasse. No, io non mi interessa direttore, voglio che si sappia che pubblico ridicola. Vabbè, adesso non rompere i coglioni su questa cosa, dai. No, domani compro pubblico, prometto di comprare pubblico. Ecco, domattina. Hai preso una copia domani. Una copia l'abbiamo presa. Vai, no, dicevo cose velocissime. Punto uno, se come diceva l'ascoltatore di prima, le responsabilità uno deve prendersele, si dice anche ai bambini, uno deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Due, se lei ammette che gli articoli di giornale possono essere delle armi, potenzialmente il carcere è una punizione corretta. Sì, dipende anche se uno dice, guardi che un articolo di giornale, certo, può sconvolgere delle vite, non c'è dubbio, ecco, non c'è dubbio, però passato, scusi. No, ma certo Massimiliano, però scusi un attimo, l'ho letto questa frase. Adesso, per carità, io rispetto anche un giudice, una persona qualsiasi che magari si è sentita, come dire, no, colpita nella propria professionalità, nella propria esistenza da una frase del genere, che è questa: certo, se ci fosse la pena di morte, se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso per il genitore, il ginecologo e il giudice, e possa ritenersi diffamata dal fatto che qualcuno scriva il giudice ha commesso un omicidio ordinando l'aborto di una ragazzina. Va benissimo, uno si può ritenere diffamato eccetera eccetera, però per una frase del genere si può finire in galera, e questo è il punto. Ma io appunto aggiungo questo, ma non è perché è Sallusti. Cioè il problema non è che è un cioè bon lei dice i giudici si sono accaniti su Sallusti. Sì, mi domando, e lo chiedo anche a lei, quanti articoli diffamatori il vecchio presidente del Consiglio ha subito? E qualcuno si è mai lamentato? No, dai, oppure... non buttare in cacciara. No, non mi chiedo, buttare in cacciara. No, ma anche lei, direttore Telese, Telese è bellissimo, direttore Telese. Beh, è vero che è direttore. Vabbè, sì, certo. Mi chiedo se non sia il problema che in realtà è Telese. Così come il problema. Allora, Severo, tu sei troppo fatuo. Voglio però provare a dire una cosa. Io da tempo sto combattendo una piccola battaglia. Parla più vicino con la bocca, parla più vicino. Io da tempo provo a combattere una battaglia forse persa contro la violenza verbale. Cioè, cioè condannare uno a morte, per quanto possa essere grave o considerarsi grave, è uno sproposito assurdo. Io credo che questa furia, che sembra poi quella del grillismo, quella delle invettive, quella della gente che inneggia la morte su internet in alcuni casi, debba essere contenuta soprattutto da un giornalista. Durissime le opinioni devono essere, ma mai istigare a qualcosa di violento. Ma qui non c'è nessuna istigazione, cioè... Infatti, posso dire, dovrebbe essere condannato a morte. Sì, dovrebbe, ma perché uno si può sentire diffamato da questa cosa qui? Il problema è un altro: si può arrivare al carcere per due frasi di questo tipo? Si può arrivare al carcere, sì o no? Massimiliano, su. Le frasi le ha dette lui, però c'è nel carcere ci va Sallusti, questo è il paradosso. Adesso dopo arriviamo a chi l'ha fatto. Massimiliano, grazie, ma un attimo di pausa prima di riprendere con questa storia e con altre, quelle che volete voi, come al solito potete chiamare e potete dire quello che volete. Beh, una vecchia conoscenza della politica italiana, caro Telese, una vecchia conoscenza della politica italiana. Beh, diciamo che ha anticipato un sacco di discussioni che stiamo facendo. È con noi Ilona Staller, buonasera. Salve, buonasera. Come stai, cara Ilona? Non dire vecchia conoscenza. No, vecchia conoscenza della politica italiana. Conoscenza, insomma. Oh, per carità, io non volevo adesso subito essere colpire sull'età, no? Caro, sì, vabbè, caro ma siccome lo sanno tutti, per cui non c'è nulla di segreto. Scusa un attimo, ma io voglio capire una cosa. Qualcuno ha scritto: la spudorata Minetti è peggio di Cicciolina. Ce l'ha Giampiero Mughini sul Libero l'altro giorno. Non so io se... intanto aggiungo, adoro Mughini perché ti piace anche fisicamente, sessualmente, no scherzo? No, adoro lui come giornalista, che è un cervello fantastico, è veramente un uomo intelligente. Beh, soprattutto dopo che ha scritto la spudorata Minetti è peggio di Cicciolina. Chi è che ce l'ha detto l'altro giorno poi? Anzi, ieri? Lele Mora ce l'ha detto ieri, cioè che hanno ragione, perché tutto sommato Cicciolina in politica c'è stato dall'87 al 92. E in quel periodo in cui hai fatto politica, facevi anche film, spettacoli, continuavi a farli oppure no? Guarda, io sì. Non è che voglio essere, non vorrei fare un linea divisoria o comunque fare chi è meglio, Cicciolina o Minetti, perché comunque io non c'entro niente con la Minetti, tra l'altro non la conosco. Vabbè, quello lo do per scontato. Mi pare ovvio. Però la Minetti è stato, non mi pare che è stato votato dal popolo italiano, mi pare che è stato messo da PDL e sulla lista. Non, al contrario di me, al contrario di me, che ho preso le preferenze, ho preso i voti, no? Qua... Esatto, io invece ho preso da Popolo Italiano, sono stata, ho preso 20.000 voti, per cui è veramente ben diverso. No, ma su questo non c'è dubbio, però io volevo capire una cosa, tu nel periodo, siccome l'altro giorno la Minetti ha fatto questa sfilata, no? Questa sfilata per una nota casa di intimo e non solo di intimo, di cui non ripeto il nome, caro Telese. La cosa che volevo sapere di Ilona Staller è, durante il periodo in cui lei è stata deputato, ha fatto anche lavori extra? Cioè ha fatto la pornostar, ha fatto film porno, ha fatto spettacoli, sì o no? Sì. Guarda, io ho lavorato, ma mi pare che ho lavorato, per cui io... Non mi pare che sia una cosa sbagliata che una persona possa fare qualche apparizione televisiva o apparizione, che ne so, di serate. Non è quello. Ma i film li giravi all'epoca, quando eri deputato? No, non mi pare. In questo momento non è che ti saprei dire sì sì. Vabbè, o no. Come, non ti ricordi la tua carriera cinematografica nel cinema porno? No, io mi ricordo tutta. Però posso dirti una cosa, che tutto sommato ognuno libero di fare del proprio corpo... di quello che voglia fare, insomma, sfruttare il proprio corpo, la propria immagine. Cioè ha fatto bene, dici, a sfilare per quella casa di moda, non ci trova niente di male da consigliere regionale a farlo? Beh, io vorrei capire però che il consigliere regionale, se praticamente sta lavorando come consigliere, pare molto poco. Ecco, perché io, insomma, è lì che è il problema, nel senso che è lì che qualcuno dovrebbe chiedere se in effetti questa persona... Ma lei sta facendo qualcosa oppure no? Prendere a non so quanto migliaia di euro al mese, mi scusi che stacco il telefono, che sennò... Sì. Ma chi è al telefono? Chi è che la sta chiamando? Così per curiosità. Ah, saranno qualche fan. risponda un attimo. Telese, te la ricordi la vicenda di Cicciolina? Ma come, Cicciolina? Io sono un biografo. Addirittura un biografo. Allora, dai. Sono andato a intervistarla per Sette, che suo figlio era un bambino, sì, Ludwig, sì. In un giorno in cui lei era furibonda, sì. E gli diceva, devi studiare, e sembrava la mamma più dolce, ma anche severa, che io avessi mai visto. Quindi era contro tutti i cliché. Ma prima ancora, sì. Ricordo il suo memorabile vestito verde imbandierato nel 1987, quando lei fece pochi interventi in Parlamento, ma tutti serissimi, tutti molto ben scritti, e non mostrò neanche una tettina. E poi mi ricordo una sfida c'ha ragione. Una guerra memorabile dialettica, durò tipo una settimana con Pannella, quando litigarono, che fu la prima volta che Pannella si trovò spiazzato su una posizione più conservatrice, e il tormentone di Cicciolina era proprio Cicciolino Marco, cerca di farti qualche godutina così sei meno astioso, sei meno arrabbiato. Quello me lo ricordo, perché lo chiamava Cicciolino Marco? Impazzì, Pannella impazzì, viene di sei, la chiamò Scemolina. Ti ricordi, Lona? Sì, Scemolina ti chiamò. Ma probabilmente era un momento di rabbia lì per non ci ho mai fatto un grande romanzino sopra. Insomma, io ma Pannella comunque... l'ha visto recentemente, mi sembra un po', no? Un po' ha perso un po' qualche, no? Ma chi? Pannella. No, Pannella rimane sempre un gran cervellone, un uomo veramente intelligentissimo. Io tra l'altro provengo da un paese dell'est, a causa del totalitarismo, vissero giorni molto difficili. Sì, la mia esperienza sarebbe comunque utile, ritornando adesso, perché io sto creando un partito. Ah, ma tu stai facendo un partito nuovo un'altra volta? Ma no, ma dai, volta. Ma che partito? Io ho fatto 8 partiti. Ma il famoso partito dell'amore con Moana Pozzi. No, DNA, Democrazia Natura Amore, insieme con l'avvocato Luca Di Carlo. Quello adesso, Democrazia Natura Amore, un altro partito, pure te ti metti a fare un altro partito, è una cosa pazzesca. Perché la mia esperienza sarebbe utile per creare presupposti per monitorare, sì. Non mi viene, me ne sono scritto la parola perché lo so che non mi viene, la scelta di una classe dirigente, tutto sommato sapete che succede, ma che scelta di classe dirigente, ma che parli come una politica, perché vera ci sono dei problemi grossi in Italia, e lo sappiamo tutti, insomma bisognerebbe un pochettino cambiare la classe dirigente. Ma no, ma che cosa strana, però adesso non ti mettere a fare il pippone politico. Ma basta guardare il telegiornale, che è un casino, sta succedendo di tutto e di più. Ma perché l'Italia sta quasi al primo posto sul problema della corruzione? E che ne so io. Ma mica Ascoltate, io ero uno dei più trasparenti. Dici? Ma questo non c'è dubbio che eri trasparente, guarda. Non parlo dei velini miei, io parlo del riguardo di... Cioè, no, lo so, ma sto scherzando, non hanno mai potuto dire che io sono stata una corrotta. Sto scherzando, ma senti, io mi ricordo, quando eri in Parlamento, chi è che ti faceva delle avance? Chi era proprio quello che ti rompeva le scatole proprio in maniera pazzesca? Senti, ma tutto sommato, quando io ero parlamentare, tutti questi grandi casini che ci sono adesso... Non c'erano, Non ce n'erano. Era meglio la Prima Repubblica. Si ricorda ancora, all'epoca si parlava molto di mani pulite. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, ultima parte con Ilona Staller, ex pornostar, come sapete, deputato, che vuole tornare in Parlamento con un movimento politico che si chiama, lo ripeto, DNA, Democrazia Natura Amore. Democrazia Natura Amore. Sulla signora... mia lista vorrei mettere, sì, delle persone con cui operare. Con cui operare che... Operare le giuste scelte per costruire un futuro. Vabbè, questo lo sappiamo. Una nuova primavera italiana. La nuova primavera italiana con Cicciolina, scusi, signora Stare, però con tutto il rispetto. Ma no, perché... Ho una grandissima visibilità, popolarità per creare staff tecnici, politici, per costruire qualcosa di serio. Lei ha detto una... lei ha detto una cosa interessante prima. La Minetti è diversa da me. Nominata. Certo, sud isole. Vabbè, ho capito. Voglio un'Italia sorridente. Ma non è ancora il momento di fare gli appelli. Scusi un attimo. Io non sto facendo la campagna elettorale. Le piace Renzi? Le piace Renzi o no? Beh, io l'ho visto in televisione, mi sono divertita. Sì. È una mi pare che è una persona simpatica. Simpatica, Renzi. Ma le piace politicamente? Ci vuole rinnovamento, nuova classe dirigente, un giovane, le piace o no? Io non ho ancora appurato che cosa esattamente lui volesse fare. Ancora non l'ha capito cosa vuole fare. Non l'ho capito. Me lo dice lei che cosa vuole fare? Beh, insomma, effettivamente ancora dal punto di vista dei programmi, però basta andare su internet e leggersi alcune cose, ma non sono così importanti i programmi poi. Ma com'è, secondo lei, di sinistra oppure... Ma qual è il problema? Non è affatto di sinistra, signor Renzi. Moltissimi politici hanno fatto dei grandi promessi e di quei promessi alcuni hanno mantenuto, e moltissimi invece hanno proprio... Ma no. Ma quello è normale. Ma Fiorito, insomma, adesso ieri. Sì, ma Fiorito, come l'ha visto in televisione? L'ha visto in televisione? Mamma mia. Che c'ha? Ma come si fa a essere fare così? Una cosa addirittura dice: io diventerò un leader di un altro partito. Ma che stiamo scherzando? Ma non ha detto questo. Ma fisicamente come l'ha visto? Ciccioso, no? Molto ciccione, È un cicciabomba, insomma, ma non è questo. Uno può essere cicciabomba, ciccioso, insomma, qualche... Io ma ho detto, caro Luca, ma questo lo sappiamo. Delle cenette 38.000 euro, quando ci sono delle persone che con 500 euro al mese, molta gente in Italia non riescono ad arrivare alla fine del mese. Perché molti fanno un paragone tra lei e la Minetti? Non l'ho mai capito, perché non c'entriamo nulla. Siete due cose completamente diverse. Come lei non c'entra con me. Innanzitutto perché lei è stata eletta e la Minetti nominata, primo. Secondo perché la Minetti non fa... Praticamente io sono stata eletta con dei voti e vi rassicuro, che ho fatto la campagna elettorale e ero diventata una magrissima scheletrica. Me lo ricordo. Quindi io ho preso i miei 20.000 voti. Io, quel che sappia, la Minetti hanno messa, insomma, non chi è che messa? Ha dovuto faticare più di tanto. Chi l'ha messa nel listino, secondo lei? Quel che ho saputo è Berlusconi. PDL, sì, no? Sì, Berlusconi l'avrà messa direttamente, no? Per forza. Sapete perché me lo domandate. Grazie, Ilona Staller, grazie. 20:38, andiamo a Nicola. Un bacione grande a tutti Nicola, voi. Provincia di Buona Ferrara. Serata, ciao. Nicola. Buonasera. Vada. Io volevo parlare un attimo della linea rossa del presidente egiziano. La linea rossa del presidente? Egiziano su Maometto. La linea rossa di Maometto sul presidente egiziano? Ma di che sta parlando? Che non bisogna superare Maometto, non bisogna parlare mai Maometto, delle vignette, del film. Ho capito, sì. Allora, che vuole dire? Io volevo dire, ma ci rendiamo conto di chi stiamo parlando? Maometto era un pedofilo, si è sposato una bambina di 6 anni e a 9 anni ha avuto un figlio da lei. Vabbè, adesso perché deve insistere su questa cosa? Maometto è un pedofilo, lei uno che va a letto con una bambina di 6 anni e c'ha 46 anni, cos'è? Magari era pure epilettico. Non faccio il virginale come sempre, cos'era? Magari è pure epilettico. Era anche epilettico, perché se legge il Corano, legge che lui quando vedeva l'arcangelo Gabriele... Ma chi se ne frega? Le posso dire una cosa? No, chi se ne frega? No, frena, Frena, lei è troppo divertente. Frena cosa? No, come no? Io sto semplicemente reclamando la libertà di opinione, cosa che lei mi sta negando. Ma che sto negando? Ma la faccia finita con queste stronzate, su. La libertà d'opinione. Ma infatti lei lo può dire tranquillamente, lei può dire sì. Maometto era un pedofilo epilettico, dopodiché secondo me dirlo certe categorie che noi usiamo adesso magari è difficile anche applicarle a quel periodo, a quell'epoca, ma va benissimo che lei lo dica, lei deve essere sì, liberissimo di dirlo. Non possiamo dirlo quando i musulmani si inalberano. No, ma lei fa bene, ho capito. Posso, anche se le dico io sono agnostico, possono dire sì, morte e miracoli, mi è capitato. No, ma lei, ma sono d'accordo con lei, lei ha il diritto di dirlo senza per questo dover temere un assalto. Un assalto in all'arma bianca o comunque di dover temere una. Purtroppo sta mancando questa libertà. Va bene, grazie. Telese, ci sei? Sì, io volevo che ci fosse ancora Ilona per farti la domanda delle domande, cioè? Cicciolino Cruciani. Cioè? Ti sei mai abbandonato a pratiche autoerotiche quando eri un ragazzino pensando alle forme di Ilona? Ah, le forme di Ilona. Cioè, quanti italiani, lanciamo dalla zanzara questo grande dibattito culturale, quanti italiani sono arrivati alla prima polluzione grazie alla Staller? Beh, tanti, tantissimi, tantissimi, tantissimi. Chissà quanti zanzaristi oggi, sentendo, sono tornati. Si sono masturbati Maddalena per la prima volta con la. No, ma tu, davanti ma alla Staller. Io alzo il livello di questo programma minore, lo alzo. Beh, hai parlato di polluzioni. Con lo scoop sul Napolitano Bus e tu arrivi e dici. Che scoop hai? Che scoop hai? Qua torna l'abate sta, e lì lo sai che lo chiamano lo sbronzo di Riace, sta scrivendo su questa cosa di Napolitano. Com'è, no? Che lo chiamano? Calcolato. Lo sbronzo di Riace. Lo sbronzo di Riace, si sa che è calabrese, sì. È cazzimmoso, come si dice, però è proprio un segugio. Guarda, lo so. Qui c'è il ciuffo, è scolpito con il gel. È il terrore del palazzo, e oggi sta raccontando di questa. Noi l'abbiamo chiamato il migliorista social club, sì. Per questa banda di meravigliosi novantenni che è in pista per provare a far riconfermare Napolitano. Ti rendi conto? Cioè, ma chi c'è? Scusa, ci saranno i soliti. I soliti saranno Macaluso. Vabbè, non è che racconti niente di nuovo. Macaluso, Cerbetti. L'uomo di Scalfa, cioè, stanno lavorando per aprire la volata. Ci ma no, ma quando mai? Ma assolutamente. Allora, 800 24 00 24, sai chi è con noi? Il terrore della camera, invece, quello che tutti temono per le sue telecamerine, per le sue intemerate, insomma è un po' il, come dire, come si può dire, il, non mi viene la parola, non mi viene la parola, il, no, ma aspetta che adesso mi viene, il birbante, il Gian Burrasca del Parlamento, Francesco Barbato, Italia dei Valori, buonasera. Giuseppe, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come stai? Come stai, caro Francesco Barbato? Sto in ufficio alla Camera e sto lavorando. Ma tu sei ancora dell'Italia dei Valori? Io sono stato eletto nel gruppo parlamentare. Ho capito, ma di la verità, ormai non ti senti più dell'Italia dei Valori, su. Ma che scherzi, io ho rispetto innanzitutto per i cittadini che hanno votato l'Italia dei Valori. Bisogna comportarsi così se si vuole essere legati all'etica e alla morale. Per cui possono anche prendermi a fucilate in Italia dei Valori, ma io non mi sposto di un millimetro, perché devo portare rispetto innanzitutto per quei cittadini che con il loro segno hanno scelto Italia dei Valori e quindi indirettamente hanno mandato me in Parlamento. Scusami Barbato, ma dimmi la verità, tu dimmela tutta, quanti Batman ci sono anche nell'Italia dei Valori? Beh, io per la verità nell'esecutivo nazionale che abbiamo tenuto a Basto giovedì scorso ne segnalai due. Due Batman? Eh sì, perché sentii due consiglieri regionali che erano intervenuti durante l'esecutivo nazionale. Ma dove? In che regione? E in Campania. Ci sono due Batman anche in Campania. Due consiglieri dell'Italia dei Valori? Sì. Cioè anche loro prendono soldi in maniera eccessiva. Si può essere Batman in tanti modi, si può essere Batman partecipando al magna magna dei rifiuti in Campania, come è capitato ad uno dei due consiglieri regionali campani che è stato beccato dalla procura di Salerno. E perché Di Pietro li tiene ancora nel partito, questi qua che tu accusi delle peggiori nefandezze? No, Di Pietro è stato molto puntuale oggi, infatti Di Pietro ha detto via le marce. Ho capito, però ancora non li ha cacciati, evidentemente le cose non sono così chiare come tu le dici. No, bisogna venire a conoscenza di fatti. Nel momento in cui si viene a conoscenza si accertano, perché potrebbero essere... Ho capito, tu li accusi... Come mi è stato detto, perché quando ho segnalato questi due consiglieri regionali d'impatto, forse protetti da qualcuno, sostenuti da qualcuno, presi mano nella mano da qualcuno... Da chi? Non lanciare messaggi così, da chi sono presi, da chi sono protetti, no, questi qua? Loro sono, guarda, io sono abituato a usare termini precisi e a chiamare le cose con il loro vero nome. Allora, durante l'esecutivo nazionale si decideva la linea del partito e c'erano questi due consiglieri regionali che sostenevano la posizione, la linea politica di Donati, cioè di allearsi con il Partito Democratico. Ma non c'è niente di male, mica sono dei delinquenti se si vogliono alleare col Partito Democratico, scusa. Nel modo più assoluto, e allora? L'ho detto chiaramente. Fare una corrente interna, fare una posizione politica, per l'amor di Dio, è legittimo, anzi, però, viva la discussione, la vivacità nei partiti, però, magari, ma quando questa discussione, queste posizioni vengono portate da soggetti che secondo la relazione della Legione dei Carabinieri di Napoli, con riferimento al rapporto del prefetto di Napoli, evidenzia chiaramente che ci sono dei rappresentanti della maggioranza di un comune che vengono individuati come il partito dei quattro e che è legato al clan verde, un clan camorristico. Cioè, tu stai napoletano. Dicendo che due esponenti dell'Italia dei Valori alla regione Campania sono legati a clan camorristici? Non lo dico io, lo dice una relazione dei Carabinieri. Ma scusa, ma perché non li caccia allora Di Pietro? Di un consiglio comunale, poi c'è il decreto del Presidente della Repubblica, quindi non lo dice Barbato. Ho capito, ma perché Di Pietro non li caccia, dato che è così è così, come dire, attento a queste cose? Perché non li manda via? Ma Di Pietro li caccerà un attimo dopo, perché il necessario... Un attimo dopo cosa? Un attimo dopo aver appurato, accertato, resosi conto, venuto a conoscenza di questi fatti. Scusa, se li sai tu li saprà anche Di Pietro, no? Vabbè, come? Comunque, se li sai tu, li saprà anche Di Pietro questi fatti. Ma no, se li so io, che c'entra Di Pietro? Perché mica abbiamo la proprietà transitiva tra me e Di Pietro. Vabbè, però ti voglio chiedere una cosa. Oggi hai incontrato dei cinesi, non stiamo qui a specificare, dei tuoi colleghi parlamentari. Come la trattano la corruzione lì? Cosa ci vorrebbe anche in Italia, Francesco? In Italia, no, io stamattina ho avuto questo incontro nella Commissione Finanze con questa... D'accordo, ma i cinesi come li trattano i corrotti? Parlamentari cinesi che, a parte le risposte che mi hanno dato in ordine ai diritti, e parlavo dei diritti... Va bene, però lavoro, andiamo al punto della corruzione. No, anche questo è importante per vedere una... Sì, però ho capito, abbiamo... Poi mi hanno dato un dossier che riferiva appunto della posizione, del profilo della Repubblica Popolare Cinese. Vabbè, questo non ce ne frega niente. E il loro, diciamo, attuale leader. Eccoci qui, 800 24 00 24, la conclusione della zanzara di oggi. Caro Telese, allora, Francesco Barbato, Italia dei Valori, quelli come Fiorito che fine fanno in Cina? Beh, quelli come Fiorito, da quando mi hanno riferito stamattina i cinesi, mi dicono che lì usano delle politiche anticorruzione che includono la tortura. Lo leggo in un dossier che mi hanno consegnato stamattina. E alla domanda precisa che ho fatto ad uno di loro, mi hanno risposto: no, ma noi... politici che sono corrotti, che non rispettano il nostro slogan che portiamo sempre in Parlamento, cioè servire il popolo. Chi non serve il popolo, chi è un corrotto, ci sono stati alcuni politici che sono stati condannati a morte. E allora io, per la verità, in Italia la pensa tantissima gente così, secondo te? Così. Sabato sera sono stato qui davanti Palazzo Chigi con i lavoratori dell'Irisbus di Avellino, che è una fabbrica della Fiat chiusa, e quando vedo le lacrime negli occhi di questi operai che dicono: siamo pronti a tutti, siamo arrabbiati, siamo indignati, allora mi rendo conto che loro, quando sanno che funziona ancora così, funziona nel senso che proprio ieri è stata approvata lì alla Camera, in Parlamento. No, ma dico, anche moltissimi italiani li vorrebbero torturati o condannati a morte, sì? Penso proprio di sì, perché quando questi politici continuano, come hanno fatto ieri, ripeto, ieri alla Camera, hanno ipocritamente modificato la disciplina che regola i contributi ai gruppi parlamentari. Ieri i gruppi parlamentari della Camera si sono ripresi 35 milioni e 450 mila euro per il funzionamento funzionamento dei gruppi, cioè sono soldi che vanno nella disponibilità dei gruppi per cene, per ristoranti. Cioè in Italia, in Italia nei confronti dei casi come quelli di Ferito siamo troppo morbidi? Certo che siamo troppo morti. Cioè, come dovremmo essere? Io, come dovremmo essere, Francesco? Quanto guadagna un parlamentare cinese? Io ho detto, io ne guadagno 12.000 euro circa al mese. E loro mi hanno detto 2.000. Scusatemi, ma i regionali da voi, loro hanno le province che corrispondono alle regioni. È uguale, prendono gli stessi soldi di voi parlamentari, perché da noi ci sono consiglieri regionali che prendono più di me, che sono un deputato nazionale. E loro come hanno risposto? Mi hanno detto no, prendono di meno, ma hanno la paghetta in nero come si fanno qui, come si attribuiscono qui i vari Batman che abbiamo. Ma che stai a scherzare? Qua se ci fossero persone come Fiorito, li metteremmo sul rogo lì nella piazza di Pechino. Lì cioè noi dobbiamo... cioè come dobbiamo essere noi? Più? Come non mi viene... Guarda, come dobbiamo essere... L'ho detto ieri in Parlamento, più severi, sono stato l'unico parlamentare che ieri ha votato contro il finanziamento ai gruppi. D'accordo, ma come dobbiamo essere nei confronti dei casi Fiorito? Più severi? Come si può dire? Più? No, non più severi, intransigenti. Spietati, spietati. Dobbiamo essere spietati, perché non è possibile che ci siano in giro questi ladri di politica. Perché a parte le ruberie che fanno, ma stanno rubando un sogno benissimo, agli italiani. Dunque i cinesi stanno facendo allontanare benissimo. Sempre di più dalla politica, ma dunque, e dalle istituzioni. I cinesi sono quasi un modello da questo punto di vista. I cinesi non sono un modello, perché io sono contrario ad ogni forma di violenza. Sì. Non esiste la violenza, però bisogna essere durissimi rispetto a questi ladri di politica, ai vari Fiorito, ai vari Batman, che purtroppo cioè dunque un po' bisogna prendere esempio dai cinesi con la loro spietatezza. Guarda, la mia spietatezza è che a questa gente io non stringo neanche la mano. Ieri ho votato contro in Parlamento quando si sono riattribuiti 35 oggi milioni. Hai incontrato questi cinesi, la loro spietatezza ti piace nei confronti della corruzione? Il tipo, cioè vuol dire essere così spietati, una cosa che ti piace? No, io sono spietato verso la corruzione e sono ogni giorno con il bazooka in mano per assaltare e distruggere ogni forma di corruzione, di spreco, di ruberie che si praticano nei comuni. Però è giusto regioni, che noi dobbiamo essere spietati. E in Parlamento ancora, per la verità. Ma naturalmente simbolicamente col bazooka, nel senso che sono durissimo, sono implacabile, ma violenza mai. Io sono contrario ad ogni forma di violenza, sia ben chiaro. Va bene, Barbato, grazie, la saluto perché stiamo per concludere. Luca, ci sei? Eccoci. Dimmi la prima pagina, su. La prima pagina è compai secondo mandato. Come? Ecco chi compai secondo mandato. Ma che sei ecco matto, chi sei? Ma per il napoletano bis. Compai secondo, che vuol dire compai secondo? Compai secondo, il Buena Vista Social Club. Mamma mia, ma non è un titolo popolare, devi vendere le copie, non è un titolo popolare, cambialo, è un titolo. Ma un titolo più popolare, Giovanni da Perugia, buonasera. Sì, buonasera Luciani, allora, velocissimo, secondo me la diffamazione è un reato grave, perché può comportare conseguenze anche gravissime sul piano personale ed economico. Quindi cioè, non capisco tutta questa indignazione intorno al fatto che ad una diffamazione acclarata e accertata in tre gradi di giudizio possa conseguire una carcerazione. Ho capito, non c'è unanimità da parte dei cittadini normali su questa vicenda di Sallusti, come sentite. Claudio da Prato. Buonasera. Vada. Velocissimo, direi che il problema non è la libertà di stampa, cioè il problema è la reazione che questa situazione ha generato. Se volessi fare una battuta, direi la posizione di troppi giornalisti e di troppi uomini di potere è quella del marchese del Grillo. Cioè? Io sono io e voi non siete un accidente e uso un... Dunque lei è contento di questa condanna o no? No, cioè personalmente mi vergognerei se fossi un carcerato per qualsiasi reato da Vinicio Sallusti come collega di galera. Addirittura, grazie. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao Luca. Un bacio, dove ciao. Vuoi. Ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Torna a questa casa, aspetta te. Radio 24. La passione si sente.